In questo stabilimento confluiscono tutti i problemi in questo momento, è una specie di specchio ustorio, perché confluisce la globalizzazione, il rapporto nord-sud, il rapporto politica e sindacato, il rapporto sindacato e lavoratori, è una specie di laboratorio particolare, diciamo. Che cosa le dico con grande sincerità, non mi è chiaro di questo accordo. Un primo problema è come si sale da 36.000 a 280.000 auto a parità di tecnologie in 3 anni. Sono andato a ritroso e mi pare che solo nel 1903 Taylor a Filadelfia ottenne un miracolo che si avvicina a questo. Per cui, non avendo i termini tecnici della situazione, non so come spiegarmelo, però è un unicum, diciamo, nella storia delle scienze organizzative. La seconda cosa è che nello stabilimento di Pomigliano confluisce tutta la problematica della globalizzazione, ma questa non cancella tutta la problematica relativa alla dialettica delle classi, perché comunque la differenza tra operaio e impiegato, tra operaio e dirigente, tra proprietà e dipendente resta e non viene cancellato dalla globalizzazione. L'altro aspetto è questa faccenda degli assenteisti. Effettivamente l'organizzazione del lavoro a livello informale a Pomigliano d'Arco è stata sempre un fattore determinante. In un mio libro riportavo, per esempio, cosa viene sequestrato la mattina all'ingresso in fabbrica, che so, da 12 dozzine, che so, di canottiere a 5 gabbie di canarini, eccetera. Cioè lo stabilimento è un prolungamento della società circostante con tutto ciò che riguarda anche commercio, lavoro nero, eccetera, eccetera. E l'altra cosa riguarda le deroghe. Beh, le deroghe sono però fondamentali, bisogna che il sindacato stia attentissimo e il sindacato è nato per riequilibrare con la coesione, dei lavoratori in qualche modo questa maggiore debolezza. Le deroghe inficiano tutto questo.